Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Prendete un'auto, una station wagon. Metteteci dentro Vasco alla guida, Ligabue sul sedile a fianco, dietro Gianna Nannini, Eros e Zampaglione che fanno casino. E immaginateli che girano le nostre balere in concerti per poche centinaia di persone. Questo, più o meno, fatte le debite proporzioni, è quello che succedeva 50 anni fa nelle sterminate lande del Midwest americano. Autunno, inverno, primavera o estate che fosse. Si chiamavano Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash e June Carter. Nessuno avrebbe potuto immaginare quello che da lì in poi sarebbe successo alla musica, neanche loro. Ma quel gruppo di artisti girava così, in macchina, insieme. Erano pionieri di una nuova corsa all'oro. Erano pionieri del rock and roll. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. Siamo tutti figli di quella musica, se dappertutto i segni di questo rinascimento musicale marcano la nostra vita e la nostra immaginazione. Da Michael J. Fox, che in Ritorno al futuro si lancia in un riff di chitarra di Chuck Berry, a Forrest Gump, che prova in casa un improbabile passo pelvico che nella fantasia del regista Elvis prenderà ad esempio. Ehi, fammi rivedere quel passo strano che hai appena fatto. Lentamente però. Mi piaceva quella chitarra. Aveva un bel suono. Cominciai a muovermi insieme alla musica, dondolando i fianchi. Una sera io e mamma facevamo spese e passavamo davanti al negozio di elettrodomestici di Benson. E indovini un po'? Bambini questa. Registi, attori, sceneggiatori televisivi, tutti hanno affrontato l'impatto che il rock and roll ha avuto nella nostra vita, a conferma dell'importanza di questo movimento musicale, di questa vera e propria rivoluzione. Torniamo a quell'auto e immaginiamo che non sia mai esistita, che i suoi occupanti abbiano lasciato perdere chitarre e microfoni per lavorare come agenti di commercio, braccianti, meccanici, nella ricca ed esplosiva America degli anni 50. Una prospettiva forse agghiacciante, che desertifica 50 anni di rivoluzione musicale. Eppure, nella vita di ciascuno di loro, questa scelta si è posta puntuale, sempre. Come al primo protagonista della nostra storia di oggi, Johnny Cash. Johnny Cash. A Kingsland, Arkansas, non ci sono grandi opportunità. Le sole che la famiglia Cash conosce vengono dalla terra e non sono rose e fiori, ma cotone. La famiglia di Johnny Cash vive la sua povertà nella schiavitù dei ritmi della terra. Il piccolo Johnny, che ha appena 4 anni, deve già sudare sotto il sole la sua sopravvivenza. Il padre non lo vede di buon occhio. Il fratello maggiore, Jack, è il prediletto. J.R., Johnny, ha sempre in testa la musica. Non sarà mai un bravo contadino. Sapevo di voler cantare già da quando ero un bambino. Avrò avuto sì e no 4 anni. Mia mamma suonava la chitarra e io me ne stavo lì seduto con lei. Lei cantava e io imparavo a cantare imitando la sua voce. Proprio come un nero trae ispirazione dalla sua condizione per intonare i suoi canti, lo stesso fa il bianco e non meno povero Cash, insieme alla madre, con la quale batte la fatica e il tempo intonando canzoni. Per Johnny, l'unica cosa certa è l'attrazione irresistibile per la musica. È una scelta che viene dal cuore, e forse lui già sente che solo il cuore guida le scelte migliori. Ma la storia di Cash è fatta di gabbie. Gabbie che nella puritana società americana sono innanzitutto sociali. L'America vuole famiglie per bene, lavori per bene, gente per bene. Tutto il resto è peccato. Lo stesso Johnny Cash ricorda i timori dell'amico Jerry Lee Lewis, con il quale ha condiviso decine e decine di esibizioni nel grande Midwest americano, convinto che il rock and roll fosse sinonimo di dannazione eterna. Jerry era convinto che sarebbe andato all'inferno. Era per il fatto di non essere diventato un prete. Lui era stato in seminario e tutto il resto. Ma poi aveva scoperto il rock and roll. Diceva sempre che saremmo andati all'inferno a causa della musica che cantavamo e io gli dicevo, non lo so, forse hai ragione, Jerry. La ragione. Quella maledetta ragione che ingabbia Cash fin dalla sua infanzia, fin dai primi litigi col padre, fino allo strappo definitivo, quando Jack, il fratello, che era anche l'unico amico, muore strappato alla vita dal duro lavoro di una quotidianità squallida e priva di senso. Uno strappo che consuma il suo cuore e il rapporto con un padre che non lo ha mai capito e col quale rimanderà alla resa dei conti. Ma la ragione non lo abbandona neanche quando parte militare in Europa. Qui, a Düsseldorf, coltiva una malinconia che diventerà il suo marchio di fabbrica musicale. Prende una chitarra, la suona di nascosto. Chi capirebbe tra i suoi commilitoni quello che si agita dentro di lui? Lui sente dentro un tarlo costante come un treno, tagliente come un rasoio. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Johnny Cash segue la ragione, o forse solo il suo destino. Si sposa con Viv, una ragazza conosciuta poco prima di partire per il militare e con la quale condivide più sogni che realtà. Sarà la madre dei suoi figli, ma quel tarlo, quel sogno di esprimersi con la chitarra, sarà per loro la distanza, a volte abissale, che li dividerà. Lui non lo capisce subito, ha bisogno di un affetto, di un riferimento, crede di averlo trovato in Viv. Lei lo tiene ancorato alla realtà. Dall'Arkansas al Tennessee, il passo è breve per un rappresentante porta a porta come lui, giusto una manciata di miglia. E porta a porta, quel destino lo conduce davanti a una vetrina di Union Avenue, a Memphis. Dentro, tutte le foto del mito del momento, Elvis Presley. Elvis è già una celebrità. Il suo primo disco è uscito ormai da un anno e la fama lo precede e lo segue ovunque vada. Ha deciso di fare di nuovo un salto lì, a Memphis, la città dove tutto è cominciato, per passare a trovare il suo mentore, Sam Phillips, ai Sun Recording Studios. Elvis è debitore a Phillips e a quel luogo magico di Union Avenue, vetrina che ha sfornato e continua a sfornare talenti del rock and roll. Quel giorno, in sala di registrazione, ci sono Carl Perkins, l'autore della Blue Suede Shoes, portata al successo dallo stesso Elvis, e Jerry Lee Lewis, il folle pianista di Great Balls of Fire. Cash è illuminato dallo stile ruvido, nervoso, totalmente rapito di Elvis. Lui così diverso, così pulito. Beh, se ti piace il rock and roll, se lo senti dentro, non riesci a fare a meno di muoverti. Questo è quel che succede a me. Non posso farci niente, devo agitarmi, non so stare fermo. Elvis ha già le idee chiare su se stesso. Vuole suonare in quel modo, vuole muovere il suo corpo. Non ci trova niente di strano, peggio, di male. È così che costruirà il suo mito. Cash è rapito da quel concentrato di potenza. Molla il lavoro e si presenta in quel posto a metà strada tra un negozio e una sala di registrazione. Vuole parlare con il titolare, quel Sam Phillips di cui tutti parlano, produttore, talent scout, guru, ma la delusione è cocente. Gli ho detto di tornare a casa e di cercare di commettere qualche peccato. Poi poteva anche tornare da me e per piacere di portarmi qualche canzone che potessi vendere. Beside a singing mountain stream, where the willow grew, where the silver leaf of maple sparkled in the morning dew. I braided twigs of willow, made a string of buckeye beads. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. I leaned against the bark of birch and I breathed the honeydew. I saw a northbound flock of geese against a sky of baby blue. Beside the lily pads, I carved a whistle from a reed. Mother Nature's quite a lady, but you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. A cardinal sang just for me, and I thanked him for the song. Then the sun went slowly down the west, and I had to move along. These were some of the things on which my mind and spirit feed. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. So when the day was ended, I was still not satisfied, for I knew everything I touched would wither and would die. And love is all that will remain and grow from all these seed. Mother Nature's quite a lady, but you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. A Destini Incrociati, Johnny Cash segue il suo istinto artistico. Si è affidato a Sam Phillips, produttore discografico attento a un buon prodotto, più che al successo commerciale. Sam chiede a Cash di tirare fuori la sua anima, di eliminare gli orpelli e parlare dritto al cuore della gente. Phillips non è nuovo del business. Ha cominciato nel 1950 raccogliendo i migliori talenti musicali neri dello Stato. Animato da un autentico interesse nei confronti del blues, ha ospitato e aiutato a crescere artisti del calibro di James Cotton, B.B. King, Howlin' Wolf, Junior Parker, Little Milton. Ma quando questi hanno abbandonato il Sun Studio intorno al 1954, Sam decide di puntare sull'incontro tra la cultura bianca e quella nera. Vuole cercare un sound nuovo. È da questa intuizione che nasce il rock and roll. Mi sono messo alla ricerca di giovani dalla pelle bianca, ma con il feeling di un nero, in grado di incidere il loro sound in un registratore fonografico. Non cercavo nessuno che fosse cresciuto in un campo, sia esso di mais, di soia o di meloni. Cercavo ragazzi in grado di rappresentare l'incontro del mondo bianco con quello nero. Mi interessava estendere la base dei musicisti, trovare dei bianchi cui interessasse la black music e viceversa. Johnny Cash è troppo controllato. Esteriormente il suo stile non riflette il tormento che lo agita. Adesso ha una famiglia, dei figli, le sue ballate si rifanno al gospel, ma tutto è così prevedibile. Mentre Phillips sta allevando una generazione di ribelli. Ma quando il talento ti esplode da dentro, tenta di uscire. Persino la gabbia più resistente prima o poi cede. E il produttore capisce che in Cash c'è un grande potenziale. È lui che decide. È lui il capo assoluto di quel piccolo regno che è il Sun Recording Studio. Lo conferma Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones. Lui sapeva quando era il momento di registrare. C'era sempre gente allo studio, gente che cazzeggiava, che strimpellava. E lui diceva, adesso. Sam aveva l'istinto perfetto per capire qual era il momento buono. Lo sentiva nell'aria e sapeva che i musicisti erano pronti per fare il botto. Nessun altro era come lui in questo. Keith Richards sa bene che importanza abbia avuto il fiuto di un discografico come Sam Phillips per le sorti del rock and roll. Il suo istinto gli dice che questo ragazzo, questo Cash, è pieno di potenziale. Ma il rock and roll richiede passione, energia e soprattutto spregiudicatezza. Se vuole sfondare, Cash ha bisogno di sporcarsi le mani. E per lui c'è solo un modello capace di ispirarlo veramente, un modello che naturalmente si chiama Elvis Presley, l'uomo che come pochi nel mondo può rappresentare uno spartiacque tra un prima e un dopo. La musica era nera e basta. Keith Richards ci tiene a ribadire con forza il concetto. È dalla musica nera, dalla musica inventata dagli afroamericani, fatta di ritmo, passione ed emozione, che deriva l'incontenibile energia del rock and roll. E questa è l'unica strada possibile se si vuole cambiare per sempre la storia della musica. Elvis è uno dei primi bianchi a varcare la soglia del Sun Studio ed è subito quello buono. Lui per primo ha saputo riprodurre quella stessa forza e quel dinamismo, sdoganando il nuovo genere e avviando una volta per tutte il suo percorso rivoluzionario e inarrestabile. La sua è stata la prima band bianca che davvero sapesse tirare fuori un sound nero. Quella fluidità che all'epoca la musica dei bianchi non aveva. Aveva quel ritmo contagioso, 1, 2, 3, 4. Cash è frastornato dal sound di quel giovanissimo musicista. E come lui, intere generazioni di giovani vengono travolte. Tutto improvvisamente diventa vecchio e stantio. Quel ciclone travolge Cash, la sua vita, la sua finta tranquillità, la sua gabbia è incrinata da una strada che improvvisamente diventa chiara. Beh, non c'è molto da dire. Elvis esplose come una bomba. Tutte le rivoluzioni richiedono dei sacrifici. Per un giovane musicista country, abituato a un sound che si addice alle vaste praterie dell'Arkansas, la terra da cui proviene, lo scontro con la realtà del rock and roll è decisamente traumatico, ma è anche necessario. Johnny Cash deve osare, deve prendere in prestito da Elvis quello stile muscoloso, rapido, coraggioso e spregiudicato che ne ha fatto la fortuna. Lo stile di Cash è forte, ma fin troppo pulito. Di certo avrebbe un destino come cantante di ballate che ammiccano alla tradizione blues, ma vuoi mettere con il rock and roll? Cash sceglie di disfarsi una volta per tutte di quell'aria pulita e per bene, la stessa da cui l'America fugge inseguendo le note del rock. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely, I'll make a die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, lonely street, they'll never never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, well, you think you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Johnny Cash ha la musica nel sangue, ma la sua gioventù è costellata di figure che tentano di dissuaderlo dal proseguire il suo percorso artistico. Vivian, ad esempio, che come abbiamo ricordato Johnny ha sposato poco più che ventenne, quando forse era ancora troppo presto per avere il buon senso di scegliere con chi dividere il resto della propria vita. Anche Elvis commette questo stesso errore, si invaghisce dell'appena 14enne Priscilla ed è fermamente intenzionato a sposarla. Dopotutto è un vero ribelle, non gli importa nulla di quello che pensano gli altri. Mi dicono che c'è gente a cui piaccio e gente a cui non piaccio. Mi va bene così, non si può mica far contenti tutti. E comunque non vedo come qualcuno semplicemente cantando o ballando possa contribuire all'aumento della delinquenza giovanile. Elvis si diverte a scherzare sull'aura trasgressiva e provocatoria con cui spesso viene dipinto dalla stampa. Eppure questa componente di perdizione non è solo un tarlo dei giornalisti creato ad arte per aumentare l'interesse attorno alle canzoni, condendolo e farcendolo con le supposte intemperanze dei nuovi idoli rock dell'America. Le malefatte di Elvis, così come quelle di Johnny Cash, sono tutt'altro che inventate. È Cash in persona a ricordarlo. We were all young and wild and crazy. Eravamo giovani, selvaggi e pazzi. Pazzi che più pazzi non si può. Beh, durante quel periodo abbiamo scoperto le anfetamine. Almeno io di sicuro le ho scoperte. Cash è davanti a una china che percorre senza freni. Accanto a lui, Jerry Lee Lewis, Elvis, Buddy Holly. Serate su serate in concerto fanno parte del suo quotidiano e la famiglia è lontana. Quell'universo di certezze, di affetti, si è improvvisamente dissolto. La lacerazione che vive è insopportabile e per Johnny non resta altra strada che quella dell'oblio dell'alcol e della droga. Eh beh, per un po' è andata bene. All'inizio pensavo addirittura che le pillole fossero una specie di dono mandato da Dio per farmi stare bene. Ma poi col tempo mi sono reso conto che mi stavo consumando, che le cose stavano precipitando, che quelle pillole in realtà erano il diavolo travestito. Intanto la carriera di Cash prende il volo. Costante come un treno, tagliente come un rasoio, lo stile di Cash si differenzia da quello delle altre stelle del rock and roll. Il suo mondo è quello della gente comune. A cominciare dai dimenticati, dai reietti, dai detenuti che canta nelle sue canzoni. Ma il suo destino, che ha deciso di cavalcare come unica certezza nella sua vita, ha in serbo per lui un incontro che potrà salvarlo. Un incontro che rappresenta il vero amore e l'interesse comune verso la musica. 1955, Texarkana, Texas. Un altro di quei posti che nella cartina geografica sono solo un punto in cui poter prevedere ogni costruzione. La chiesa, la sala comunale, le case basse raggrumate attorno alla strada principale, tanta polvere e poco da fare se non lavorare. Qui, tra le quinte del teatro, Cash incontra una cantante che è in cartellone con lui. Basta uno sguardo, a lui un po' timido e schivo, per rimanerne profondamente affascinato. Cash è attratto da quella donna che, al contrario di lui, è disinvolta e allegra davanti alla platea. Capisce in un istante che non è solo, tra mille dannati, a vivere quel bisogno viscerale di fare musica, ma che nella musica può trovarsi la redenzione, la bellezza. Il suo angelo lo ha appena visto. Deve andare in scena. L'altoparlante annuncia la prossima artista. Signore e signori, e ora un grande applauso per la bella e brava June Carter. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go. Honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you around town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking. That's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking about Destini Incrociati è in America, a metà degli anni 50, nel bel mezzo del boom economico e sociale. La gente ha voglia di scatenarsi, di mollare i freni inibitori e lasciarsi andare. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness and gracious, great ball of fire. Johnny Cash è entrato nella cerchia di Sam Phillips, produttore che ha lanciato tanti talenti neri, ma che adesso punta a trovare qualcosa di nuovo. E per questo ha aperto le sue sale ai giovani americani con il debole per la musica nera. Cash si porta dietro il pesante fardello della western and country music, ma in quelle sale conosce i musicisti della nuova ondata che interpreta il gospel e il blues in un modo nuovo. Le sue parole sono taglienti, la sua voce porta la verità. Ma serve di più. Serve un cambiamento radicale nel sound. Cash sa che Elvis rappresenta la perfezione e la ventata di novità e di trasgressione che Phillips gli sta chiedendo di impersonare. I due sono molto diversi. Cash ha l'indole dell'autore introspettivo, ombroso, spesso problematico. Presley, invece, è un allegro e scatenato, quando non addirittura sexy e lascivo. Eppure Cash sa quello che deve mutuare dal suo collega. Non si tratta di copiare uno stile, ma di assorbirne dei motivi ricorrenti che servano a rendere più appetibile il proprio. Appena la sua metamorfosi è completata, Cash torna al Sun Recording Studio con un paio di nuove canzoni da far ascoltare a Sam Phillips, stavolta suonate e interpretate con un piglio energico ed affilato che diventerà il suo marchio di fabbrica. Cash veste sempre di nero perché non ha altro da mettere. Ha una famiglia che non vede mai. L'unica cosa in cui crede veramente è la sua musica. Ma ha bisogno di qualcuno che gli faccia capire che cosa significa decidere per una vita, la sua vita. E questo qualcuno, June Carter, piomba come una stella cometa sul palco dell'auditorium municipale di Texarkana, Texas. June ha cominciato presto a respirare l'aria del palcoscenico, sin da quando è nata in Virginia. Con la madre e le sorelle dà subito vita a un gruppo, la Carter Family, legato alla tradizione folk e country americana. Una ragazza decisamente spigliata e divertente. Per questa sua dote viene definita un clown dal talento naturale. Dal Grand Ole Opry, uno show in diretta nazionale tra i più noti del paese, fino alle date in palcoscenico come solista, la sua carriera è lanciatissima. Mi dispiace. La corda si è impigliata nel vestito. Ehi, Bill! Aspetta, Bill, sto arrivando! Ah, se non sbaglio, quella era la voce di June Carter, signore e signori. Adesso... Arrivo subito, Bill! Ah, verso che ora, più o meno, June? Sai che c'è, Bill? Sono rimasta impigliata! Oh, e in che cosa, June? Nelle corde della chitarra di Johnny Cash! Tranquillo, posso farli ridere almeno altri due minuti. Okay. E ti dico una cosa, Bill! È un ragazzo robusto, questo Johnny Cash! Anche le corde della sua chitarra sono robuste! Comunque, mi piace la tua canzone. Una grande novità! Grazie. Oh, ecco finalmente John Carter! Lo scambio di battute a cui avete appena assistito è tratto da Quando l'amore brucia l'anima, film che nel 2006 ha regalato l'Oscar come migliore attrice protagonista a Reese Witherspoon, interprete del personaggio di June Carter. Anche lei è stata sposata, ma ha capito presto che la felicità e la famiglia non sono un binomio indissolubile. Uno specchio davanti al quale Johnny comincia a porsi le prime domande. È dalla fine degli anni 50 che Johnny Cash inizia a girare l'America in tour perpetuo insieme a personalità del calibro di Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, gli stessi musicisti che ha avuto la fortuna e il privilegio di incontrare al Sun Recording Studio di Memphis, Tennessee. Insieme a loro c'è June Carter, giovane e appassionata cantante country, erede di una longeva e prolifica famiglia di musicisti. Cash non può fare a meno di notare la sua bellezza, ma soprattutto la sua grinta, il suo spirito combattivo e la sua ammirazione per lui. Eccoci perciò di nuovo in quell'auto. Cinque musicisti viaggiano da un teatro all'altro del paese per esibirsi con tutta la loro vitalità e talento. La gente li va a vedere perché è invitata da amici e conoscenti. Per molti di loro è la prima volta che vedono suonare il rock and roll. I come from just the other side of nowhere to this big time lonesome town. They got a lot of ice and snow here, ain't half as cold as all the people I found. Everywhere I try to go here, somebody's always trying to bring me down. I've seen about enough to know where I'll be bound. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in the park alone. Give my best to anyone who's left, who's ever done me any loving way but wrong. And tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. Taking nothing back to show there for these dues that I've paid. But the soul I almost sold here and the body I've been giving away. Fading from the neon nighttime glow here, heading for the light of day. Just the other side of nowhere, going home. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in the park alone. Give my best to anyone who's left, who's ever done me any loving way but wrong. And tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. I got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in the park alone. Give my best to anyone who's left, who's ever done me any loving way but wrong. And tell them that the pride of just the other side of nowhere's going home. Se il re era Elvis, anche gli altri non erano da meno. Cash in questi anni affina il suo stile tagliente che tanto piace a June Carter. Ciao. Ciao, come stai? Ti disturbo? No, no, figurati. Hai perso la voce? Ah, sì. Stasera ho dato l'anima sul palco. Toglimi una curiosità, come ti sei inventato quel sound? Che sound? Quel sound di cui tutti parlano, costante come un treno, tagliente come un rasoio. Beh, suonerei più veloce se potessi. Non lo so, viene così. June adora lo stile di Johnny e adora anche l'uomo che lo incarna. Ma le tendenze autodistruttive di Cash la terrorizzano. Il matrimonio di Cash, infatti, è ormai da tempo andato in pezzi. Johnny allo sbando, senza più punti di riferimento né freni inibitori di alcun tipo. Eppure, in mezzo al caos che lo pervade, sente che June potrebbe rappresentare la sua salvezza. Ma la redenzione è un percorso accidentato. June gli resta accanto per 32 giorni di fila, prendendosi cura delle sue paure, delle sue crisi di astinenza, delle sue debolezze, dei suoi disperati tentativi di fuga. Chi la dura alla fine, la vince. Siamo stati insieme in tour sin dal 1963 e ci siamo sposati nel 1968. Johnny Cash ha attraversato il suo cerchio di fuoco e se ne è uscito indenne, e solo grazie alla tenacia della sua June, con la quale adesso è pronto a dare spazio a tutta la propria vena creativa. Love is a burning thing and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash è una star della musica. Anche lui, come spesso accade, lotta con le unghie e con i denti contro la maledizione del rock and roll. Il suo stile grave e affilato, spesso dolente, lo aiuta a restare parzialmente ancorato alla realtà. Ma non basta. È precipitato in una spirale di alcol e droga, un tunnel dal quale alcuni dei suoi compagni di viaggio non riusciranno mai più ad uscire. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. Nel 1977, il cuore di Elvis smette di battere. È un momento che ferma la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Così come 22 anni prima avevano cominciato a pulsare al ritmo del rock and roll. Cash ci era andato vicinissimo 10 anni prima. La sua strada aveva trovato la via della maledizione e della droga, ma ha trovato una mano pronta a stringere la sua. Collega, amica, moglie, angelo custode, questo è June Carter per Johnny Cash. E cosa più importante, June è colei che è riuscita a salvare il cantante aiutandolo nella battaglia contro le sue dipendenze. Una guerra che da solo, con tutta probabilità, non sarebbe riuscito a vincere. Eppure Johnny, per sdrammatizzare, ama scherzarci su. Il segreto di un matrimonio felice? Bagni separati. Forse è proprio questo che è mancato ad Elvis Presley. Una donna, una figura femminile forte che si prendesse cura delle sue debolezze. Dopo il naufragio del suo matrimonio, infatti, Elvis si ritrova immancabilmente solo nel dorato, luccicante ma spesso decisamente finto mondo dello show business. Diviso tra il rutilante universo di Las Vegas e la solitudine della sua reggia di Graceland, Elvis è vittima del suo personaggio, dell'idea che i fan e l'opinione pubblica hanno di lui. Ma come ricorda lui stesso, con amarezza, la persona e il personaggio sono due cose molto, troppo diverse. Beh, l'immagine è una cosa, la persona è un'altra. È difficile convivere con la propria immagine. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Elvis e Johnny Cash hanno avuto molto in comune. Le origini umili, il desiderio innato di emergere, il bisogno di esprimersi attraverso la musica, il fortunato incontro presso i Sun Studios di Union Avenue a Memphis, la città che ha assistito alla nascita delle loro rispettive carriere. Ma a Elvis è mancato l'apporto fondamentale di una figura come quella di June Carter, l'unica donna in grado di cambiare il complicato corso dell'esistenza di Johnny Cash. E a dire il vero, anche la vita di June ha preso una svolta dal momento in cui ha deciso di dedicarsi a Johnny. Si è lasciata 2 matrimoni sbagliati alle spalle e ha scelto di intraprendere una strada forse a tratti dolorosa, ma certamente degna di essere vissuta. Entrambi hanno scelto di varcare la sottile linea che scorre lungo il crinale tra la felicità e la disperazione. E hanno scelto di farlo tenendosi rigorosamente per mano. Io sono sempre molto felice di andare in qualunque posto in cui ci sia anche mio marito, perché io sono costantemente, completamente felice. Anzi, credo che la parola giusta sia liberata dal giorno in cui mi sono sposata con Johnny Cash. Johnny ha cantato il mondo dei reietti, dei dimenticati. Il suo Folsom Prison è stato l'inno dei detenuti di tutti gli Stati Uniti. È anche a loro che il cantante dell'Arkansas deve il suo successo. È così che nel 1968, l'anno del suo matrimonio, riesce a prendere finalmente la decisione che lo smarca definitivamente dall'essere solo un musicista e lo consacra nel novero degli uomini che fanno una società più giusta. Tiene il suo concerto più importante nella prigione di Folsom. Senti, Frank, mentre Johnny era a disintossicarsi, il mondo è cambiato. Dylan suona l'elettrica, i Birds suonano l'elettrica, i Beatles, tutti suonano l'elettrica. A John serve un nuovo sound e lui invece vuole incidere un album dal vivo con gli stessi musicisti all'interno di un carcere di massima sicurezza. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Come può un uomo cantare la disperazione quotidiana di un carcere senza esserci mai stato? Come può un artista parlare ai cuori induriti di assassini e delinquenti che ascoltandolo si sciolgono come bambini? Le autorità intuiscono il valore di quel concerto. Il mondo reale, per una volta, nella società blindata del 1968, legge in uno dei suoi artisti un messaggio di collaborazione e dialogo. Quel concerto diventa il disco tra i più venduti dell'anno. Per Cash un punto di ripartenza con il quale confermare la propria musica, il proprio stile, anche se i tempi sono cambiati, anche se dalla lontana Inghilterra la musica è davanti a una nuova svolta, a fianco di quel palcoscenico improvvisato, in mezzo alle guardie carcerarie, June Carter è fiera del suo uomo. Con il prezioso aiuto della moglie June, Johnny Cash riesce a salvarsi e a proseguire per decenni la sua splendida carriera musicale, diventando idolo e ispirazione di artisti tra cui Bob Dylan, Bruce Springsteen e Bono degli U2. Per 40 anni la vita ha unito Johnny e June sul palcoscenico. Hanno vinto tantissimi premi, venduto milioni di dischi. Difficile immaginare l'uno senza l'altra. E il destino li vuole insieme anche nel momento dell'addio. Sia Cash che la Carter sono scomparsi nel 2003, a distanza di appena qualche mese l'uno dall'altra. Entrambi non volevano tardare troppo a quell'ultimo definitivo appuntamento. Where do we go when we die, you mean? Dove andiamo? E intende quando moriamo? Well, we all hope to go. Beh, spero davvero che ci rivedremo tutti in paradiso. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns,